Buonasera, questa è Banda Armata, in onda sulle frequenze di Fuori Onda Radio e in differita ogni giovedì alle 17.30 su Radio C-Roma. Via con la sigla. Razzinga! Razzinga! Trema il regno delle tenebre del male, dalla fortezza di San Pietro arriva, coi pugni teologici. Razzinga! Razzinga! Tuona, si scaglia dal sagrato contro il male, se sei nemico prega è già finita, la chiesa batte in indice. Razzinga! Razzinga! Croci rotanti! Razzinga! Pater noster! Razzinga! Ostia di fuoco! Ha la mente di Lutero, ma tutto il resto va da sé. Non conosce la paura né sa italiane che cos'è. Lotta cade, si rialza, sempre vincerà. Razzinga! Razzinga! Rosario atomico! Razzinga! Lama del diavolo! Razzinga! Doppio amen! Forte, con uno sguardo spacca in due conclave, dagli occhi sputa fuori salmi gamma, non c'è chi è forte più di te. Razzinga! Razzinga! Tutto il resto fa da sé. Non conosce la paura né sa italiane che cos'è. Se hai bisogno puoi invocarlo, con la Bibbia apparirà. Razzinga! Razzinga! Bombe gnostiche! Razzinga! Luce divina! Razzinga! Spada teologica! Razzinga! Sermone perforante! Razzinga! Incenso atomico! Razzinga! Pugno teologico! Razzinga! Croci rotanti! Razzinga! Doppio amen! Razzinga! Ora pro nobis! Razzinga! Acqua santa! Lama diabolica! Rosario! Di nuovo buonasera da Pierpaolo da Banda Armata. Come tutti i martedì sera in onda sulle frequenze di Onda Radio. Questa sera iniziamo a parlare di università. L'università che in questi giorni sta vivendo dei momenti veramente molto importanti. Come molti già sapranno, il famoso DDL Gelmini, il nuovo DDL Gelmini, la legge 1905, è nuovamente arrivata alla Camera da due giorni, nuovamente in discussione. Il Parlamento si appresta nei prossimi giorni, tra domani e dopodomani molto probabilmente ci sarà la votazione definitiva, decisiva, si appresta dunque a varare questa legge che sta veramente portando finita l'università, che sta veramente distruggendo l'università. In questi giorni quindi c'è grande fermento un po' in tutte le università italiane, in tutti gli atenei, ma non solo, anche in tantissime scuole sparse per il territorio italiano. Soltanto oggi sono avvenute di tantissime manifestazioni, tantissime azioni da parte di studenti delle università e delle scuole. Sappiamo tutti già abbastanza di questa legge, ma una ripetizione, su quelle che sono le principali questioni che vengono toccate dal DDL 1905 non fa certamente male. Sappiamo già che questa è una legge che è stata un decreto legge che è stato messo in atto dal ministro Gelmini l'anno scorso praticamente, e che dopo un lunghissimo iter parlamentare ora sta per essere purtroppo approvata. Noi ovviamente speriamo di no, cercheremo di fare tutto il possibile per evitare che questo divenga che questo DDL diventi una legge. Allora, sappiamo già cosa prevede, ma come dicevo prima, ripetiamo un momento per chi è distratto, per chi ancora non si è informato. Una legge che prevede degli importanti tagli al diritto allo studio. In certo senso vengono eliminate le borse di studio, che sono sostituite dai prestiti d'onore, in pratica, dai buoni studio che devono essere restituiti. È una legge che va praticamente a bloccare le carriere dei ricercatori, che sono praticamente i ricercatori strutturati, sono praticamente costretti ad una vita da ricercatori. Quelli precari vengono praticamente sbattuti a calci nel sedere fuori dall'università. È una legge che riforma la governance universitaria, rendendo sempre meno democratici i processi decisionali all'interno dei vari atenei, ovvero il potere concentrato nelle mani di poche persone che divengono sempre più potenti a scapito dell'intera comunità universitaria, dell'intera comunità accademica. Insomma, è una legge che può essere benissimo catalogata tra le controriforme, ovvero un grandissimo passo indietro, una perdita di diritti, in primis il diritto allo studio, e tutta una serie di altri elementi che fanno da contorno adesso, che non fa nient'altro che limitare sempre di più l'accesso all'istruzione universitaria. Bene, come dicevo precedentemente, in questi ultimi giorni, tra ieri e oggi, ci sono state tantissime occupazioni, un po' in tutta Italia. Sappiamo di 10 facoltà su 11 occupate oggi a Pisa, sappiamo di una grande occupazione a Palazzo Fontana a Torino, che è avvenuta dopo un'assemblea di Ateneo molto partecipata, circa 1 milione di persone, e che ha scaturito successivamente un corteo spontaneo che è arrivato fino alla stazione di Porta Nuova di Torino e ha portato all'occupazione dei binari della stessa stazione. Non soltanto Torino e non soltanto Pisa ovviamente stanno vivendo queste ore di grande mobilitazione, ma tantissimi altri atenei, tantissime altre realtà sparse in tutta Italia. Quindi è una situazione che ovviamente è in divenire, anche perché non si conosce ancora molto bene quando e se avverrà una reale votazione del DDL alla Camera. Bene, prima di continuare a parlare ancora di università, mettiamo una buona canzone, Lucio Dalla, Disperato Erotico Stomp. Dovere a una fontana che non ero io. Ti hanno visto spogliata la mattina, birricchina, birricò. Mentre con me non ti spogliavi neanche la notte, e ti eran botte, Dio, che botte. Ti hanno visto alzare la sottana, la sottana fino al pelo, che nero. Poi mi hai detto, poveretto, il tuo sesso dallo al gabinetto. Te ne sei andata via con la tua amica, quella alta, grande fica. Tutte e due a far qualcosa di importante, di unico e di grande. Io sto sempre in casa, esco poco, penso solo, sto in mutande. Penso a delusioni, a grandi imprese, a una thailandese. Ma l'impresa eccezionale, dammi retta e essere normale. dopo una settimana. Non era tanto freddo e normalmente ho incontrato una puttana. A parte i capelli, il vestito, la pelliccia e lo stivale, eccoci nuovamente in onda. Dicevamo precedentemente delle mobilitazioni che specialmente oggi stanno caratterizzando la vita universitaria di tutta Italia. Abbiamo parlato un pochettino di Torino, che è stata forse la città insieme a Pisa che più di ogni altra ha segnato questa giornata. Ovviamente anche nella capitale, anche a Roma, ci sono varie forme di protesta. La sede di architettura è stata occupata, alcuni studenti, altri ricercatori hanno piazzato delle tende sul tetto per mettere in atto un'occupazione dello stesso tetto ad oltranza fino ad ottenere il ritiro della legge. Sul ballatoio della statale di Milano altri ricercatori sono in protesta. A Salerno diversi studenti hanno occupato il rettorato del campus e il rettore lì giustamente ha ben pensato di rivolgersi alla Digos. Quindi solite scene che siamo già abituati a vedere più volte. Forse Gustavo vuole dire qualcosa in merito. No, ma devo dire che anche noi comunque abbiamo dato il nostro contributo. Infatti è notizia di questa settimana che per protesta, insomma, all'Ateneo, diciamo, mediterranea di Reggio, sono stati emessi 8 avvisi di garanzia, che è una grandissima protesta, no? Questa è una notizia che ci ha dato il nostro grandioso Claudio Cordova, che sarà qui anche alla nostra iniziativa delle navi a perdere il 16 dicembre. L'abbiamo letto su strill.it, era una perla che ho voluto darvi, che insomma è interessante anche per capire quali saranno le dinamiche che faranno muovere l'università calabrese dopo il 2013, che è, diciamo, l'anno finale dei tagli, l'anno definitivo della distruzione dell'università pubblica. Dopo la parentesi di Gustavo, torniamo un pochettino a vedere cosa bolle in pentola. Abbiamo parlato un po' di varie università, non vogliamo annoiarvi facendo l'elenco di tutti i vari presidi, siti, manifestazioni e quant'altro è avvenuto oggi in Italia. Importante invece parlare di quello che avverrà domattina e per un bel po' di tempo davanti alla Camera, davanti a Montecitorio. È previsto infatti un presidio al quale parteciperanno tantissimi studenti provenienti non soltanto dagli Atenei Romani ma anche da tante altre università italiane e molti ricercatori, ovviamente. Un presidio con l'intento di assediare il Parlamento e di far cambiare idea a chi dovrà col suo voto decidere delle sorti dell'università. Un presidio d'oltranza che per l'appunto cerca all'intento di mettere pressione non solo sul governo ma su ogni singolo deputato. Ebbene, veniamo un pochettino, cerchiamo di capire cosa sta facendo il governo. La legge già era approdata a metà ottobre alla Camera per poi essere bloccata immediatamente dalla Commissione Bilanci. In definitiva non c'erano i soldi e la Commissione Bilanci ha detto dovete rinviare la discussione della legge. È riapprodata ora nuovamente alla Camera e il governo ha ben pensato di fare una forzatura in quanto sta cercando di approvare una legge necessita di una copertura finanziaria, nonostante la cosiddetta legge di stabilità, che in parole povere sarebbe la finanziaria, non è stata, come tutti ben sanno, ancora approvata. Di conseguenza il governo è stato costretto a ritirare una serie di emendamenti che erano stati già precedentemente approvati in Senato, che dovevano essere approvati anche alla Camera. Insomma, sta facendo un po' di confusione perché vuole assolutamente con ogni mezzo approvare questa maledetta legge. Sta facendo di tutto e sta anche andando contro quello che qualche settimana fa lo stesso governo aveva, lo stesso Parlamento aveva approvato, cioè grande prova di incoerenza rispetto a quello che aveva fatto pochi giorni fa. In tutto questo la situazione alla Camera è abbastanza fluida. Come si diceva prima, la votazione non si sa bene quando avverrà, la votazione definitiva potrebbe essere domani, potrebbe essere dopodomani. Potrebbe avvenire anche con qualche altro giorno di ritardo. La realtà di fatto è che il nuovo gruppo parlamentare di Fini, Futuro e Libertà, sta ponendo dei freni, sta ponendo delle limitazioni. In particolar modo sta ponendo due emendamenti come decisivi, ovvero dice: se voi non ci concedete questi due emendamenti, cioè l'approvazione di questi due emendamenti, noi votiamo contro. Sono più o meno le parole preferite da Fabio Granata, uno dei finiani di ferro, che quindi pone questa condizione. Gli emendamenti che sono stati apportati al testo che è approdato ieri alla Camera, anzi sabato alla Camera, sono 34 per ciò che riguarda la maggioranza, di cui due sono quelli di cui parlavo poc'anzi, e altri 400 dell'opposizione, il che ci fa pensare che piccolo rallentamento alla procedura parlamentare di discussione ci potrebbe anche essere. Ovviamente il nuovo testo, quindi, che sarà sottoposto alle Camere, quindi che sarà votato, fortunatamente sarà diverso da quello che è stato approvato un mese fa al Senato, e di conseguenza molto con ogni probabilità sarà necessario rimandarlo nuovamente al Senato. Qualcuno dice, in iscrizione si dice il 9 dicembre, quindi prima della fiducia, per ridiscuterne nuovamente. Con ogni probabilità la legge verrà approvata sì prima, o comunque verrà definitivamente approvata o non approvata prima della fiducia, e quindi il rischio concreto che la stessa possa diventare veramente una una legge che possa definitivamente mandare all'altro mondo il sistema dell'istruzione pubblica italiana è abbastanza concreto, ricordando che il governo traballa alla Camera ma ha una maggioranza alquanto solida invece al Senato. Per questo ribadiamo la necessità di lottare in questi giorni, c'è cioè, sì poco tempo, ma c'è una necessità grandissima di lottare, di fare quel che si può, quel che si riesce a fare nelle proprie università e soprattutto davanti a Montecitorio, dove ci sarà un sit-in ad oltranza. Bene, torniamo a mettere un po' di musica. I treni per Reggio Calabria, Giovanna Marini. Andavano col treno giù nel meridione per fare una grande manifestazione il 22 d'ottobre del 72. Di bandiere rosse, slogan, cartelli e scritte a mano, da Roma, Ostiense, 1200 operai, vecchie, giovani e donne, con i bastoni e le bandiere arrotolate, portati tutti a marcia sulle spalle. Il treno parte pari un incrociatore, tutti cantano bandiera rossa. Dopo 20 minuti che siamo in cammino, si ferma e non vuole più partire. Si parla di una bomba sulla ferrovia, il treno torna alla stazione. Tutti corrono coi megafoni in mano e richiamano, andiamo via Cassino. Compagni, da quel Reggio è tutto un campo minato, chi vuole si rimette in cammino. Dopo un'ora quel treno che pareva un balcone ha ripreso la sua processione. Anche a Cassino la linea è saltata, siamo tutti attaccati al finestrino. Roma Ostiense, Cisterna, Roma Termini, Cassino, adesso siamo a Roma Tiburtino. Il treno di Bologna è saltato a Piverna, una notte d'inferno. I feriti tutti sono ripartiti, caricati sopra un altro treno. Funzionari, responsabili, sindacalisti sdraiati sulle reti dei bagagli per scrutare meglio la massicciata, si sono tutti addormentati. Dormono, dormono profondamente, sotto le bombe non sentono più niente. L'importante adesso è di essere partiti, ma i giovani hanno gli occhi spalancati. Vanno in giro tutti eccitati, mentre i vecchi sono stremati. Dormono, dormono profondamente, sopra le bombe non sentono più niente. Famiglie intere a tre generazioni sono venute tutte insieme da Torino, vanno dai parenti, fanno una dimostrazione. Dal treno non è sceso nessuno, la vecchia e la figlia alle rifiniture, il marito alla verniciatura, la figlia della figlia alle tappezzerie, stanno in viaggio ormai da più di 20 ore. Aspettano seduti, sereni e contenti, sopra le bombe non gliene importa niente. Aspettano che è tutta una vita che stanno ad aspettare per un certificato, mattinate intere, anni e anni per due soldi di pensione. Erano 23, i più forti del titolo, guardare quelle facce bastava solo. Con la notte, le stelle, con la luna, i binari stanno luccicanti, mai guardati con tanta attenzione, e camminando sulle traversine, mai individuata una regione, dai sassi della massicciata, dalle chine di erba sulla vallata, dai buchi che fanno entrare il mare, piano piano al passo d'uomo, pareva che il treno si facesse portare, tirato per le briglie come un cavallo tirato dal suo padrone. A Napoli la galleria illuminata, bassa e sfasciata con la fermata, il treno che pare un balcone, qualcuno vuol salire, attenzione, non fate salire nessuno, può essere una provocazione. Si sfondano coi megafoni in mano, un piede sullo scalino, e gridano, gridano quello che è in mente, sono comizi la gente, sento la passa la notte con la luce, la ferrovia è tutta popolata, contadini e pastori che l'hanno sorvegliata, col gregge sparpagliato, la Calabria ci passa sotto i piedi, ci passa dal tetto di una casa, una signora grassa fa le corna e alza una mano, e un gruppo di bambini ci guardano passare e fanno il saluto romano. Ormai siamo a Reggio e la stazione è tutta nera di gente, domani chiuso tutto in segno di lutto, attento Ciccio Franca sbarre, e alla mattina c'è la paura, e il corteo non riusciva a partire, ma gli operai di Reggio sono andati in testa, il corteo si è mosso improvvisamente, è partito appunto come un grosso serpente con la testa corazzata, i cartelli schierati lateralmente l'avevano tutto fasciato, volavano sassi e provocazioni ma nessuno se n'è pure voltato, gli operai dell'Emilia Romagna guardavano con occhi stupiti, metalmeccanici di Torino e Milano buttavano in avanti tenendosi per mano, le voci rompevano il silenzio e nelle pause si sentiva il mare e il silenzio di quelli fermi che stavano a guardare, e ogni tanto dalle vie laterali si vedevano i sassi volare, alla sera Reggio era trasformata, pareva una giornata di mercato, quanti abbracci e quanta commozione, il nord è arrivato nel meridione, la sera Reggio era trasformata, pareva una giornata di mercato, quanti abbracci e quanta commozione, gli operai hanno dato una dimostrazione. Ed eccoci nuovamente in onda. C'è da ricordare innanzitutto che noi andiamo in differita ogni giovedì alle 17.30 su Radio C-Roma. E poi c'è da fare una precisazione. Se sentite un po' di disturbi, se l'audio non è molto pulito, non possiamo farci niente purtroppo. Il maltempo crea dei disagi e degli inconvenienti anche alla nostra piccolissima radio. Bene, torniamo nuovamente a parlare di università che, come avrete capito... Il maltempo. Dicelo che ci piova dentro quest'aula. Dicelo che ci piove. Dicelo. Trasmettiamo da un'aula occupata che è alquanto fatiscente. Ogni tanto riceviamo la visita della pioggia. Ritorniamo a fare le persone serie, ritorniamo a parlare di università che, come avete capito, è la questione della serata con cui abbiamo iniziato comunque questa diretta. Vediamo un pochettino cosa succede dopo aver parlato in generale della legge, aver parlato di quello che è previsto in questi giorni, ricordando che c'è un'importante manifestazione prevista per sabato 27, di cui poi torneremo anche a parlare, manifestazione a Roma. Vediamo un pochettino quello che è successo nelle ultime settimane all'Università della Calabria. Avevamo già informato i nostri ascoltatori della bellissima e partecipata assemblea di facoltà di ingegneria del 26 ottobre, mi sbaglio Gustavo, dico bene, sì? La memoria ancora non mi inganna, tenuta ovviamente alla facoltà di ingegneria, un'assemblea molto partecipata che ha prodotto, oltre ad un documento politico molto forte, molto duro nei confronti della politica del nostro governo, e del DDL 1905, aveva scaturito anche la nascita di un coordinamento di studenti di ingegneria, un nuovo soggetto politico che per l'appunto si prefiggeva come obiettivo quello di lottare contro la legge. Ci sono state un po' di assemblee di questo, un po' di riunioni di assemblee di questo nuovo soggetto, così come ci sono state delle altre assemblee non moltissimo partecipate, a dire il vero, in altre facoltà. Insomma, la discussione, il confronto all'interno dell'Università della Calabria va comunque avanti. L'ultima assemblea si è tenuta proprio oggi pomeriggio, è proprio dall'aula da cui vi stiamo parlando, si sono state programmate le attività che si intende portare avanti nelle prossime settimane, nei prossimi giorni innanzitutto, a partire da una serie di lezioni di piazza di cui qualcosa di più sostanzioso potrà raccontarvi Gustavo. È praticamente la discussione oggi è stata abbastanza travagliata, visto che indecisione sostanziale che travia il nostro governo, non si sa se cade, non si sa se regge, non si sa chi appoggia, non si sa chi non appoggia, quindi prendere una decisione in questo caso è abbastanza difficile. Comunque ci rendiamo conto che i tempi sono strettissimi per quello che erano le forze, per quello che sono state le forze che si sono viste nell'assemblea, diciamo più di iniziare un percorso che possa portare nella settimana prossima o al massimo, è stato deciso entro martedì 7 dicembre, ad una assemblea, diciamo, degli studenti che possa prendere delle iniziative, diciamo, più allargate, e non abbiamo potuto far nulla. Si è deciso appunto di iniziare un percorso di sensibilizzazione con delle lezioni che in un primo tempo, in questo fine settimana, giovedì e venerdì, saranno tenute all'Università della Calabria, dirette soprattutto agli studenti. E la prossima settimana si continuerà all'Aula Caldora, intercettando gli studenti che vanno a mensa, che mangiano, così ci facciamo io distorta anche una cosa, che è giusto, perché mica il nostro caffè deve essere solo amaro, anche quello degli altri, no? Quindi andiamo ad informare anche loro. E poi al polifunzionale saremo martedì mattina, poi si andrà a Cosenza, al Museo del Presente, vicino al Metropolis, e infine concluderemo molto probabilmente giovedì a Piazza dei Bruzzi, a Cosenza, sotto i portici del Comune. La cosa è che anche il tempo non c'è amico, un detto che ormai serpeggia tra le nostre file è che Dio è con la Gelmini, assolutamente, perché non ci sta aiutando affatto. Ogni volta che usciamo c'è un diluvio che non si tiene. Adesso ci entra anche nell'aula, quindi è una tragedia. Comunque questa è la nostra intenzione. Domani comunque, visto e con nuovi aggiornamenti di cui si discuteva anche prima, ovvero sia quello che è uscito proprio negli ultimi minuti sul Repubblica, che dice che ci sarà il 9 il passaggio della palla al Senato, il 9 dicembre. Insomma, domani si concluderà, si ratificherà definitivamente questa strategia, diciamo così, cercando di allargare il più possibile la discussione anche alle altre componenti degli studenti organizzati e non, che si trovano lungo il ponte Pietro Bucci. Ecco, questa è la sostanza dei fatti. Intanto sappiamo che anche le altre realtà studentesche si stanno mobilitando, chi si muove in una direzione, chi in un'altra, ma comunque tutti compattamente uniti nel gridare il nostro dissenso per questa assoluta vergogna. Io per questo momento avrei finito, non lo so, c'era Pierpaolo che aveva grande desiderio di annunciare la canzone successiva, quindi lascio il microfono a lui e ve lo vedrete qui ad altri 15, 10, 30. Quanto vuole parlare lui, insomma. Gustavo ha molta voglia di scherzare questa sera, ma io non sono da meno. Quindi accolgo la sua sfida e lancio la canzone. Alma Megretta, The Cheap Guru. Oh, there, why? Qui? What for? Qui? Pourquoi, wa? Qui? Warum? Qui? Qui? Oh, there, why? Qui? What for? Qui? Pourquoi, wa? Qui? Warum? Qui? creed of a cheap guru. The Chip Guru, Alma Megretta, questo è un grande pezzo a cui sono affezionato particolarmente, quindi mi sentivo di condividere con voi questa emozione, diciamo così. Niente, io vorrei aprire con delle chicche che ci regala il nostro professor Costa, è un professore della Mediterranea che è costernato per quello che è successo e risponde a degli studenti, no? E lui dice che non solo è terribilmente costernato per l'accaduto, ma si è vergognato anche per coloro che ormai non sono più in grado di vergognarsi. E questa è una cosa che mi riempie di stima, diciamo, nei confronti del professor Costa. Cosa è successo alla Magna Grecia di Catanzaro? Scusatemi. Niente. Ci sono 11 avvisi di garanzia che la direzione distrettuale antimafia ha notificato nei confronti di altrettanti soggetti che avrebbero agito a vario titolo affinché uno dei clan storici dell'Andrangheta estendesse i propri tentacoli sull'Ateneo Reggino. Ci sono professori, tra gli indagati, impiegati, studenti, a vario titolo, ovviamente. E questa cosa fa presagire, come dicevo prima, come ho già accennato prima, quelle che saranno, diciamo, le potenze economiche che interverranno e salveranno l'Università Pubblica Calabrese. Noi non abbiamo imprese, ma in compenso abbiamo una grandissima 'Ndrangheta che ci permetterà. Multinazionale. Mi dice Pierpaolo dall'altra parte della regia che appunto una delle più grandi multinazionali italiane, cioè con mondiali, anche Tarlo dal suo posto di fonico mi garantisce che questa è una notizia che possiamo sottolineare. Salutiamo a tal proposito il nostro grandissimo fonico Tarlo. Grande Tarlo, saluta l'audience, saluta... Buonasera a tutti. Che voce. Comunque, in questo spezzone parleremo appunto delle manifestazioni che ci sono, che sono già state chiamate, una importante della Federazione Regionale dell'USB Calabria, il nome dei sindacati di base, che a firma di Luciano Basta dicono appunto questa è una manifestazione dei precari e dicono appunto l'esclusione dei precari calabresi, l'ennesima beffa, dai fondi destinati dal governo nazionale ai lavoratori LSU LPU del sud, diciamo che non può fare altro che dare un'ulteriore spinta verso questo sciopero. Lo sciopero sarà il 25 a Reggio e c'è una manifestazione appunto regionale che sarà programmata a Villa San Giovanni per le ore 10. È prevista una numerosa partecipazione e in quell'occasione l'USB ha indetto sia lo sciopero che la manifestazione. Un'altra manifestazione è quella appunto indetta dalla CGIL a Roma. Susanna Camusso, la nuova segretaria della CGIL, finalmente una donna, e saranno felici le nostre compagne femministe. Appunto una manifestazione sui giovani e il lavoro. Il comunicato che ne parla dice: è giunto l'ora di cambiare l'agenda politica di questo paese, se non siamo nelle condizioni di farlo. La CGIL, diciamo, è un po' strana, nel senso che prima si parla di sciopero generale, poi si ritorna indietro, poi se ne riparla. Oggi non ha capito bene cosa fare, anche perché penso che l'instabilità governativa metta in seria discussione quelle che sono le dinamiche dei potentati che la governano, ecco. Queste le due manifestazioni, comunque importante è la partecipazione di tutte le componenti, sia ad una che all'altra, cercando di dare voce appunto a quello che si può declinare in maniera generale come il grande problema del precariato, perché in sostanza di questo si tratta di una intere generazioni che sono appunto strette da questa mannaia che è la precarietà esistenziale, sostanzialmente, senza avere certezze e senza avere nessuna garanzia. Vi lascio appunto con un pezzo, vi lascio ovviamente per 3 minuti e 22, non scappate, con un pezzo di uno dei gruppi calabresi che è stato tra i più innovativi sia della nostra tradizione folk sia del rock in generale, detto anche PNP, il parto delle nuvole pesanti, dall'album Sulle ali della mosca, dedicato appunto ai precari, Terribili momenti. Voce, negli attimi di insicurezza atroce, le gambe musce e le ginocchia stanche, quando non trovi il senso e ti vergogni, con gli occhi guardi intorno e cerchi aiuto, non sai se una parola può bastare, il caldo sale troppo tardi ormai. Arriva sorprendente senza avviso, il male fa girare tutto intorno, ti senti rivoltare il mondo dentro, ti già s'apporta all'intu sacramento, lasciati prendere e travolgere dal battito violento e la tarantola ti salta addosso, inizia il movimento. Ho calcolato bene ogni secondo, il tempo necessario è tutto quanto, ogni minuto è stato decifrato, ogni segnale è stato catturato, vibra la pelle in una testa vuota, ribolle il sangue e tutto viene su, passo e ripasso e non mi fermo. I piedi si sono squagliati, i gambe sono liberati, uelene si è sprigionata, i stendini sono torcinati, e clinici cassennati, i cuori sono fracassati, terribili momenti superati, terribili momenti superati, terribili momenti superati. Adesso prende però il microfono, lo so perché sono un cretino, per questo adesso prende. Ho aperto il microfono a metà, quindi non poteva partire il microfono, ecco. No, no, no, ecco, è colpa mia, va bene. No, perché c'è una certa incongruenza tra la nuova regia e i frontman. Qui non lo so, cioè, qua c'è una cosa che non si capisce. Cioè. Comunque un saluto va anche al nostro grande Peppe Lange, che stasera non è potuto essere con noi, ma sicuramente rivedremo da qui alle prossime puntate in collaborazione con l'ormai in pianta stabile Tarlo, dai. Che sta dimostrando. È la prima volta che faccio regia in questa trasmissione. Spero che non sia l'ultimo. No, no, assolutamente, assolutamente. Comunque siamo entrati a piene mani nella sezione ambiente e territorio, che come gli ascoltatori di Fuori Onda Radio sapranno è un must. Ambiente e territorio che non è un corso di laurea in ingegneria. No, no, no, assolutamente, assolutamente. Ha fatto bene a precisarlo Pierpaolo, perché... No, diciamo che i nostri ascoltatori più affezionati, diciamo, sanno benissimo che a noi della P2 ci piace trattare anche di questi argomenti, come facciamo spesso. Noi parleremo appunto in questa sezione di acqua pubblica, la manifestazione del 4, di carbonio, di rifiuti, poi faremo un piccolo riassunto di tutte le situazioni di cui abbiamo parlato. Ecco, il Comitato Acqua Pubblica Cosenza, in concomitanza con quelle che sono state tutte le altre realtà appunto riunitesi sotto questa sigla a livello nazionale, hanno chiamato una grande manifestazione che è indetta a livello regionale. Si terrà a Cosenza per la Calabria il 4 dicembre. Il corteo partirà. Se non vado errato, non vorrei sbagliarmi, alle 15 da Piazza Loreto, dopo il corteo ci sarà un concerto in cui suoneranno un gruppo di amici, i musicisti, i musicanti del vento, che sono un gruppo emergente, molto bravi, che vi consiglio di seguire. La problematica dell'acqua pubblica è una problematica che ci appassiona spesso. Ci ha appassionato e ci rende, diciamo, assolutamente, ci fa assolutamente partecipi, perché ovviamente le tematiche delle privatizzazioni in genere e della tendenza verso il modello americano sono tematiche che ci stanno particolarmente a cuore. Sono tante le occasioni in cui la privatizzazione, in particolare la gestione del servizio idrico, si è dimostrata fallimentare. Ne abbiamo discusso ampiamente nelle altre puntate, come ricorderanno sia gli ascoltatori di Radio Ciroma sia gli ascoltatori che ci stanno ascoltando on air sullo streaming del nostro sito. Una notizia interessante che è comparsa su Terra dell'ultima uscita è quella che dall'Unione Europea è stata revocata per la Regione Lazio la deroga appunto ai limiti di legge per la concentrazione di arsenico. Voi dovete sapere che nella Regione Lazio e in altri 128 comuni d'Italia la concentrazione di arsenico delle acque, diciamo, bianche, dette tali, quelle che escono dal rubinetto, è superiore ai 10 mg, che sarebbe il limite che è accettabile, diciamo, dal nostro corpo. Cioè, superando questo limite, ed è il limite massimo, e sappiamo benissimo che non è stato sicuramente un limite stringente, cioè sicuramente sarà un limite massimo. Questo qua è stato superato ampiamente nelle acque bianche di 128 comuni. Basti pensare che nella provincia di Roma la concentrazione di arsenico ha superato la soglia di 50 mg per litro. Cioè la concentrazione è pari a 58 mg per litro. Questa qua è una situazione che... Oppure la gestione e la gestione. forte cazzone con un stemma a rete, una cupulella che vi si era aizzata, passa scampanianna pattuleta, con mano a papà da fa guardare. Tuo fa l'americano, americano, americano, senta a me chi tu fa fa. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, poi siente disturbato. Tu a ballo rock e roll, tu gioca a baseball, me sorte beccamella, chi te li dà la borsetta di mamma. Tuo fa l'americano, americano, americano, ma si nati in Italia, sienta a me non c'è sta niente fa, ok napolitan, tuo fa l'american, tuo fa l'american. Come da poca picchi ti va bene, se tu la parla miezza americano, quando si fa l'amore sotto luna, come da bene in capo di I love you. Tuo fa l'americano, americano, americano, senta a me chi tu fa fa. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, oh, ti senti disturbato. Tu a ballo rock e roll, tu gioca a baseball, me sorte beccamella, chi te li dà la borsetta di mamma. Tuo fa l'americano, americano, americano, ma si nati in Italia, sienta a me non c'è sta niente fa, ok napolitan, tuo fa l'american, tuo fa l'american. Americano, americano, americano, ma si nati in Italia, sienta a me non c'è sta niente fa, ok napolitan, tuo fa l'american, tuo fa l'american. Whisky soda, rock and roll, whisky soda, rock and roll, whisky soda, rock and roll. Proviamo con questo. Vabbè, pare che va un po' meglio. Ci scusiamo purtroppo, ma abbiamo problemi tecnici con il microfono. Ripasso la parola a Gustavo. Cerchiamo di rifare il punto della situazione del discorso precedente. Ecco, vabbè, comunque dicevo, mi stavo complimentando con Tarlo con... perché è entrato direttamente con tuo padre americano, che ovviamente era un pezzo che ci stava a pennello con il discorso che stavamo facendo, perché si parlava di americanizzazioni, appunto. E appunto la questione dell'acqua è una questione che è legata direttamente alla privatizzazione, a quello che è il must del momento, ovvero sia pubblico, non va bene, privatizziamo tutto quanto. E ciò che è successo, dicevamo, nella provincia di Latina, per esempio, con la privatizzazione dell'acqua, è qualcosa che è stato nelle prime pagine dei giornali per molto tempo e che oggi ci ha dimostrato che il privato non è assolutamente meglio del pubblico, però si paga di più e questa è una cosa che è buona. Quindi il 4 dicembre rinnoviamo l'invito a tutte le componenti studentesche a partecipare alla manifestazione a Piazza Loreto, concentramento alle 15. Adesso passiamo ad un altro argomento che è quello di cui non si sente. We'll be right back. Rieccoci in onda. Purtroppo siamo stati costretti a modificare la scaletta dato che abbiamo avuto problemi tecnici con il microfono. Questi erano gli Zoo con la canzone Carbon, che l'abbiamo usata per introdurre appunto l'argomento centrali a carbone, di cui adesso Flavio ci parlerà ampiamente. Grande Big Carl, praticamente mi fate parlare sempre di carbone. Non solo regista stasera. E parliamo di carbone. Carbone ne parliamo in termini positivi perché il consiglio regionale lo scorso consiglio regionale, che ha visto presentata la nostra mozione, la mozione che abbiamo costruito insieme al Comitato Sviluppo della Sibaritide per mesi, cercando di fare tutte le pressioni possibili ai consiglieri regionali del territorio e non. Alla fine si è riuscita ad arrivare a una sintesi in quel consiglio regionale, grazie anche alle numerose contraddizioni che sono state ovviamente sollevate in questo frangente. Le istituzioni sono state rimesse di fronte alla realtà che una riconversione al carbone non avrebbe portato assoluta della centrale di Rossano, ma anche è stato inserito poi all'interno della questione della nostra mozione il progetto di SEI per quanto riguarda la centrale di Saline Ioniche in provincia di Reggio Calabria. Le istituzioni sono state messe di fronte con le spalle al muro di fronte al fatto che una riconversione a carbone di una centrale come quella di Rossano, una costruzione come quella della centrale di Saline Ioniche, avrebbe semplicemente portato a altra devastazione al nostro territorio. La mozione è stata sostanzialmente votata all'unanimità dal consiglio regionale, seppur si è arrivati chiaramente i consiglieri regionali di maggioranza e di opposizione non hanno risparmiato anche in questo caso sulla pelle della gente di fare i soliti giochetti: se la scrivi tu non la voto io, se la scrivo io non la voti tu. Alla fine si è arrivati a questa sintesi. È una mozione chiara che esclude, che di fatto conferma quello che è scritto nel piano energetico regionale e che esclude questo tipo di combustibili, ma non solo, per quanto riguarda il territorio calabrese, ma non solo, impegna la giunta regionale a ostacolare presso il Ministero ogni tipo di progetto che vada verso grandi impianti termoelettrico con combustibili fossili. Per cui è una vittoria dei territori, finalmente, per una volta lo possiamo dire. Certamente questo non chiude la partita da questo punto di vista è chiusa dal punto di vista politico, ecco, perché senza l'assenso della regione non si può dare il via ai lavori. Certo, sono comunque dei procedimenti aperti, o meglio, per quanto riguarda Rossano il procedimento è chiuso in quanto la commissione di valutazione di impatto ambientale ha rigettato l'escamotage che aveva cercato l'Enel integrando un vecchio progetto. Per quanto riguarda Saline invece, la valutazione di impatto ambientale è stata positiva, non si riesce bene a capire perché, sulla base di quali valori. In ogni caso è sicuramente una battaglia vinta da parte dei territori, è una partita che durerà comunque a lungo, perché quando ci sono di questi interessi le partite è difficile che si chiudano in una battaglia, però comunque è un segnale positivo. Era un segnale positivo certamente, ma sappiamo che la lotta non si chiuderà con la decisione della regione e il lavoro comunque fatto fino ad adesso da tutti i cittadini che si sono impegnati attivamente in questa battaglia è assolutamente apprezzabile. La prossima canzone è una canzone che parla appunto di rifiuti, che introduce il prossimo argomento. È una canzone del gruppo che suonerà il 4 dicembre, dei Musicanti del Vento, del primo album che hanno fatto, L'Isola dei Burattini. Ascoltatele e apprezzate Al fondo dello stivale, 4 minuti e 33 di pura italianità. stagnante società a sud del mondo, tra porte aperte per metà, un sogno appeso al lado di cravatte che nel clima teso sfaran le ombre sui perché. E allora fermi, c'è troppa ombra sulla via, e allora avanti, sopra ogni colpa l'amnistia. Se sputo in cielo, lo sputo mi ritorna giù, e se sposto il viso, può darsi che lo prenda tu, lo prenderai, paga tu per i miei guai. E c'è chi si arrende, chi fa la guerra, vieni a far festa nella mia terra, vieni giù al fondo dello stivale, prendi i problemi e li affondi nel mare. C'è chi si arrende, chi fa la guerra, vieni a far festa nella mia terra, vieni giù al fondo dello stivale, prendi i problemi e li affondi nel mare. Finché la testa reggerà, poi Don Chisciotte brucia il mulino e se ne andrà. Bandiera bianca, al vostro gioco giocherò. Bandiera nera, un tuffo in mare morirà. Voi nominati piloti della libertà, noi corpi vuoti a spasso tra le verità, siamo la faccia di quella terra di più giù, dove il destino può darsi che lo scriva tu, lo scriverai, sei più complice che mai. E c'è chi si arrende, chi fa la guerra, vieni a far festa nella mia terra, vieni giù al fondo dello stivale, prendi i problemi e li affondi nel mare. C'è chi si arrende, chi fa la guerra, vieni a far festa nella mia terra, vieni giù al fondo dello stivale, prendi i problemi e li affondi nel mare. Che gira la giostra, balla nel regno di cosa nostra. Passa la morte di legge vestita, che fianco la legge del prezzo alla vita. Passa la nave, la bella stagione, piange la terra del sole. Passa la voce, passa la vita, passa la sola battaglia finita. Passa nel sangue della mia terra, o chiudi gli occhi e combatti la guerra. Passa la voce, passa la vita, passa la sola battaglia finita. Passa nel sangue della mia terra, o chiudi gli occhi e combatti la guerra. Qua avevamo i Musicanti del Vento, spero che abbiate apprezzato questa chicca che a me sinceramente mi ha commosso, sinceramente commosso. Questi giovani che riescono a dimostrare tutta la loro potenza nella produzione musicale. Sono musicista, quindi mi dilungo in questo, quasi parlo solo di questo in questo spezzone. No, vabbè, siamo arrivati ad un'altra questione centrale, che è quella dei rifiuti. Sappiamo quello che è successo a Terzigno, quello che sta succedendo a Terzigno e quello che è successo a Pianopoli, che nella sua particolarità dimostra una terra che è eccezionale, travagliata. Praticamente, allora, a livello nazionale si dice che va bene, bisogna trovare un modo per sversare i rifiuti di Terzigno, Puglia e compagnia bella, mandiamoli nella discarica di Pianopoli. Purtroppo la discarica di Pianopoli era, diciamo, un po' fatiscente. Comunque ci sono state delle ordinanze di prima del sindaco di Lamezia, che poi non si sa cosa è successo bene, perché si è reso conto che avvallare una determinata cosa faceva un po' saltare quello che era il piano lamettino dei rifiuti. Poi il sindaco di Pianopoli, poi La pioggia si c'è messa, si è distrutto tutto quello che era il percorso che permetteva di raggiungere la discarica. E dopo questo non solo i sindaci comunisti, non solo ci è messo Dio comunista che ha fatto piovere e non ha fatto raggiungere i camion la gognata meta, ma anche i carabinieri comunisti che hanno sequestrato la discarica. Cioè, la cosa è eccezionale, però pensate, il nucleo operativo ecologico di Catanzaro ha sequestrato la discarica di Pianopoli e questo qua ha paralizzato completamente tutto il sistema dei rifiuti, l'ametino. Ci sono più o meno, se non vado errato, un'ottantina di comuni che dipendevano da questa cosa e sta saltando tutto quanto. Vabbè, hanno ben pensato, vabbè, se su un versante non riusciamo a metterli, mettiamo sull'altro. Quindi a Rossano si è subito pensato alla grandissima discarica di Bucita. Bucita. Come? Ok, dipende dal punto cardinale da cui guardi il trionfo, diciamo così. Comunque Bucita o Bucita. E dopo, insomma, le notizie sono tante, ma noi piace toccare con mano quanto è successo, quindi diamo la parola al nostro inviato e al nostro caro Flavio, che ci darà notizie fresche che non so nemmeno io, quindi potrei trovarmi in lacrime al prossimo intervento. Sì, mio malgrado sono stato inviato sul posto, diciamo. Vabbè, chiaramente, essendo fortemente, insomma, innamorato della mia città, mi sono trovato così per caso proprio ieri sera. Che cosa è successo ieri sera? Come giustamente diceva Gustavo, il commissario Simio, ossequi commissario Scopelliti, e il subcommissario, soprattutto Pugliano, nonché assessore all'ambiente, di cui abbiamo potuto apprezzare svariati interventi, soprattutto l'ultimo consiglio regionale, veramente da brividi, ma veramente un grande intervento sui rifiuti, ha dimostrato sostanzialmente non proprio niente, addirittura ci ha costretto ad apprezzare interventi di Ferdinando Aiello, quindi pensate che livello. Comunque, al di là di questo, perché poi si scade in hanno ben deciso di spargere un po' questi rifiuti che dovevano andare a Pianopoli, discarica sequestrata. Hanno deciso di mandare questi rifiuti in giro, tra cui a Rossano 10.000 metri cubi di rifiuti. Quali rifiuti? Vabbè, non è una cosa semplice. Quali rifiuti arrivano? Sei sicuro di sapere quali rifiuti arrivano? Ma 10.000 metri cubi quanti saranno? Voglio dire, nel cofano della mia macchina ci entreranno? Sì, più o meno. Questi 10.000 metri cubi che devono arrivare praticamente da Castrovilla di Gioia Tauro, che sono centrali di smistamento, cioè non posti di Castrovilla di Gioia Tauro, e poi i rifiuti della Daneco. Hanno fatto due ordini, allora, i rifiuti della Daneco, arrivano questi altri rifiuti della Daneco e anche poi di un'altra azienda che, se non mi sbaglio, è la Jet. Insomma, arrivano questi rifiuti qua. La discarica di Bucita, va sottolineato, è una discarica chiusa per questioni igienico-sanitarie. Sostanzialmente la discarica è esaurita e per questioni inerenti all'ambiente, alla salute delle contrade vicine, questa è stata chiusa, quindi sostanzialmente non ci passava più niente. E allora che il nostro sindaco, ha detto: non è possibile questa cosa, non ce lo possiamo permettere, no? Il nostro sindaco, voglio dire. Per cui ha fatto un'ordinanza dove ha vietato a tutti i mezzi di trasporto che venivano da fuori dei 35 paesi del consorzio che devono mandare i rifiuti a Bucita, comunque la discarica si apre, cioè a morale chi, la finezza, la discarica si apre, ma dove Gioia Tauro, Villa Piana, non vuole pensare per me, soltanto insomma Cariati, Villa Piana, compagnia bella. Questa è stata l'ordinanza del sindaco. A quel punto c'è una bellissima dichiarazione ANSA del subcommissario, nonché assessore all'ambiente Pugliano, che dice in buona sostanza, non so se ce lo troviamo, esatto, ci stiamo muovendo anche per la vicenda Rossano perché non può passare il concetto che l'ordinanza di un sindaco blocca un sistema. Ci stiamo muovendo con la prefettura di Cosenza in modo da evitare che si crei un precedente che può diventare assai pericoloso. Chiaramente il subcommissario qui ha paura del precedente che un sindaco, che è la massima autorità territoriale, che si occupi... Che un sindaco si occupi di un territorio, cioè dove sta scritto che un sindaco si occupa del suo territorio, cioè una cosa scena. Non si può creare un precedente a questo punto di vista. Si può invece creare, secondo anche, oltre che Pugliano, anche secondo noi, il precedente di una discarica chiusa per questioni igienico-sanitarie che riceve 10.000 metri cubi di rifiuti che arriva, non si sa. In buona sostanza quello che è accaduto è che il commissario, in virtù dei propri poteri commissariali, ha commesso una trentina di irregolarità, da un punto di vista istituzionale, da un punto di vista sanitario, da un punto di vista ambientale. In buona sostanza si stanno mandando rifiuti in una discarica abusiva, perché la discarica di Bucita è chiusa, non c'è più spazio, oltretutto è stata chiusa perché anche quello spazio era... sottoposto a una restrizione per questioni igienico-sanitarie, ma la sostanza è come se si prendessero questi rifiuti e si buttano nella vallata che sta a Bucita. La differenza di buttarla in quel posto e in un altro posto è che non ci guadagna nessuno se la butti in una vallata qualsiasi. Invece se la butti in quella vallata che è a gestione privata, ci guadagnano i ben pensanti, poi ci sarà mischiato anche qualcuno, noi non lo vogliamo dire che c'è mischiato qualcuno di... sono solidali, le persone solidali. Non sono queste persone solidali. Allora, che cosa è successo? Il prefetto, su richiesta pubblica del subcommissario Pugliano, scrive al sindaco, al nostro sindaco, e gli dice: visto che tu ci hai bloccato i canoni, visto che siamo in emergenza, visto che hanno chiuso Pianopoli, visto che Pugliano ci sta stracassando, come sta chiamando stamattina, ce l'ha scritto tra le righe, mi dispiace ma ti devo revocare la tua ordinanza sindacale. Per cui stamattina è successa una cosa molto interessante. Noi alle 9 ci siamo presentati davanti al bivio della discarica di Bucita e abbiamo trovato i vigili che, come ieri i vigili hanno multato 21 camion. È stata una cosa molto interessante, 500 euro a camion, secondo me tutto in cassa del comune, tutto massimo, comune mio, quindi speriamo che non si immagino, come so, cioè si immagino sicuro, ma almeno ho mangiato una piccola bolla ogni tanto. Detto questo, stamattina abbiamo trovato i vigili e c'erano i camionisti che erano già stati informati. Dicevo: guarda che il prefetto, considerate che stamattina non era pubblica ancora questa cosa qui, però lo sapevamo da ieri perché c'è stato un'umana. Stamattina i camionisti già lo sapevano, guardate che il prefetto l'ha annullata la cosa del sindaco. Insomma, si è fatto una fila là, dopo che è arrivata l'ordinanza del prefetto e i camion hanno cominciato a passare. Noi abbiamo registrato dalle 9 all'1 più o meno un 130 camion, di cui 70 più o meno erano quelli dell'Ecoros, che sarebbe Ecologia Rossano, la nostra fantastica azienda. Poi un'altra settantina abbiamo visto, insomma, Bisignano, Frascineto, Reggio Calabria, Gioia Tauro, Crotone, Lecce. Così, cioè passavano questi quattro camion di Lecce, subentrati là. Quindi stamattina ho cominciato a passare questi camion, le contrade lì chiaramente si sono allarmate, noi abbiamo fatto lì un po', ci siamo messi insomma a fare un po' di rumore. Ecco, fino al pomeriggio, quando abbiamo bloccato la strada. E purtroppo ne eravamo tanti, devo dire la verità, eravamo una ventina di cittadini, abbiamo bloccato la strada e con un camion il cui autista tra l'altro era pericolosamente sosia di Silvio Greco, questo potrebbe essere, scusate per le ironie. Comunque l'abbiamo tenuto lì un'ora, dopodiché sono arrivati i carabinieri, a che sono? A regia, a quanto, perché la cosa è lunga, vuol dire gustare. Un'ora e ventitré ci sta, vai, puoi ancora andare, hai ben 2 minuti e 54 secondi a disposizione, vai. Mi dicono dalla regia che lo dobbiamo tagliare, ma credo che stia dicendo dobbiamo tagliare, perché nel caso non lo dico, insomma, c'è bisogno che tagliare. Ho capito, la redazione è entrata in cabina di regia, ho capito. Allora, sono arrivati i carabinieri, come ti chiami, sono le solite cose, come ti chiami non lo so, come ti chiami in bu, fino a che non hanno cominciato a identificare i ragazzini delle famiglie che stavano là. Allora, a quel punto abbiamo detto, vabbè, passate, insomma, erano un paio di camion che stavano aspettando. Considerate una cosa particolare che va raccontata, perché la gente a casa lo deve sapere. Dalle 9 all'1 saranno passati più o meno 60-70 camion. Dopodiché abbiamo cominciato a fare casino e sono passati due camion fino alle 4:30. Non appena abbiamo tolto il blocco, sono arrivati i camion. Wow. C'è una rete di comunicazione non indifferente a cui dovremmo imparare. In ogni caso, abbiamo deciso poi di intervenire in consiglio, comunale, che c'è stato stasera, che praticamente quando è finito sono partito per venire qui. Abbiamo occupato simbolicamente il consiglio comunale. Al consiglio comunale, tra l'altro, hanno partecipato anche il consigliere regionale Mario Franchino e il vicepresidente della provincia Trento, proprio per questa questione qua. Ci hanno trovato agli scranni dei consiglieri, i consiglieri si sono accomodati gentilmente sugli spalti. Abbiamo chiesto che il consiglio comunale non si facesse e che ci si spostasse tutti quanti al presidio. A questo appello hanno subito aderito quattro consiglieri, trasversalmente, diciamo, fra centrodestra e centrosinistra. E adesso ci stavamo spostando verso il presidio. A quanto pare la discussione verteva sulla sospensione o meno del consiglio comunale, e dalle ultime indiscrezioni che sono arrivate via telefono, a quanto pare il consiglio comunale era stato sospeso, i consiglieri si stavano spostando al presidio. La cosa importante da sottolineare, che abbiamo anche espresso in un comunicato che uscirà spero domani sui giornali come rete di difesa del territorio, è che sono scoppiate delle contraddizioni enormi per questa faccenda, in cui il prefetto, ovvero l'organo istituzionale massimo, l'esponente dello Stato all'interno del territorio, avalla un commissario che c'è da 14 anni, tra l'altro, come figura istituzionale, in una palese, enorme, catastrofica illegalità. Cioè, il confine, ormai quello che molto spesso cerchiamo di sottolineare, è scoppiato in una contraddizione enorme, nel momento in cui la legalità dice facciamo questa cosa, dobbiamo fare questa cosa illegale, e ce ne strafottiamo dei comitati, ma neanche dei sindaci, facciamo intervenire i prefetti, una cosa allucinante, una contraddizione enorme, che chiaramente dobbiamo anche saper sottolineare e far capire alla gente, no? Certo. Anzi, aggiungerei certamente. Poi una cosa che abbiamo sottolineato nel comunicato è che se è legale fare tutto questo avvelenando una contrada, una città e un popolo, evidentemente la giustizia sociale, la giustizia ambientale, la giustizia politica non stanno nella legalità in questo momento. Vanno cercate, e ci siamo presi pubblicamente le responsabilità attraverso il comunicato, crediamo che la verità, la giustizia sociale vadano cercate in questo momento nell'illegalità. Certo, stavo dicendo di nuovo certamente, perché è un concetto che ovviamente appartiene a quelle che sono i miei pensieri. È un fatto che si può trovare in maniera latente in tutta la gestione istituzionale del nostro paese, ma penso che anche oltre altro, se si fa un po' di attenzione, il confine tra legalità e illegalità è mantenuto solo quando questo non va ad impattare determinati poteri. Quindi questa è la sostanza. Intanto noi, prima di salutarci, fare i riassunti vari di tutta quella che è stata questa puntata, vi facciamo ascoltare una chicca del nostro territorio, appunto, diciamo, questo è un gruppo di Verzino, un gruppo di ricerca musica popolare, Nu Poeta, vai Tarlo. Ma Luca, è bello sto refrain, ma magari è la bomba branca chiavica. La bomba branca chiavica è una bomba, però è diversa da tutte le altre bombe, perché nasce... Normalmente le bombe nascono per distruggere una popolazione. La bomba branca chiavica invece viene concepita per risolvere il problema del traffico a Napoli. Cioè non deve distruggere tutto, perché sennò poi hai risolto il problema del traffico, ma non hai più neanche il problema del traffico, perché sei morto pure tu. Invece la bomba branca chiavica che cos'è? È una bomba che praticamente esplode e non danneggia le cose. E dici tu, già ci sta la bomba nucleare. Ma la bomba nucleare uccide indistintamente tutti gli uomini. La bomba branca chiavica invece è come una bomba nucleare intelligente. Cioè, arriva, individua la chiavica e se la branca. Ho capito, adesso è chiaro. Chi risolverà la crisi mondiale? Chi contrapporrà l'America? Uguale o superior potenza militare? Chi mai ci riuscirà? La bomba branca chiavica. Cioè a livello che è nato un gruppo qualsiasi, no? Cioè con sti violini, sta ambientazione musicale, sta idea melodica. Cioè ci facevano 10 pezzi d'amore, 600.000 copie si facevano i maliardi. Noi che facciamo? A bomba branca chiavica. Parlo per te. Ok, salve. Cioè, mi sono sbagliato. Questo era un pezzo dei Bisca Zulu, dall'album I Tre Terroni del 2006. Era la bomba branca chiavica, che era una chicca carina che abbiamo trovato e abbiamo voluto condividere con tutti voi. Andiamo al riassunto della puntata di oggi. Intanto dicendo che salutiamo quelli che ci stanno ascoltando in diretta on air, la diretta streaming sul sito del laboratorio più occupata, e salutiamo anche gli ascoltatori di Radio Ciroma che ci stanno ascoltando in differita, che sarà fra 2 giorni, giovedì pomeriggio. Oggi abbiamo trattato come sempre molti, molti temi, partendo dall'università, da quella che è la situazione generale, il marasma governativo, l'incertezza di questo momento. Poi abbiamo fatto un excursus di tutte quelle che sono state le azioni fatte dai vari movimenti, dalle varie realtà studentesche. Da Torino a Milano fino a Catania, abbiamo discusso della situazione dell'Università della Calabria, di quello che si sta muovendo sotto e tra i nostri cubi. Abbiamo parlato della manifestazione delle unioni sindacali di base indetta per il 25 novembre a Reggio, appunto, dei precari dell'USB, la manifestazione indetta dalla CGIL a Roma il 27 novembre per i giovani e i lavoratori. Abbiamo parlato poi nella sezione ambiente e territorio dell'acqua pubblica, facendo il curioso passaggio sull'arsenico nella regione Lazio e in altri 128 comuni da Trento a scendere. Abbiamo appunto innovato l'invito, e rinnoviamo ancora adesso l'invito alla partecipazione alla manifestazione del 4 dicembre, che partirà da Piazza Loreto alle 15 e che si concluderà con un momento, diciamo, di intrattenimento con il concerto dei Musicanti nel Vento. Dopodiché si è parlato di nuovo della vittoria che abbiamo avuto come rete in difesa del territorio, Franconistico, come rete no carbone, appunto sulla questione della centrale Enel Rossano e sulla questione della centrale di Saline Ioniche, con il pronunciamento appunto del Consiglio regionale, che si è tenuto l'ultimo Consiglio regionale, appunto, che si è espresso unanimemente contrario a un ulteriore aumento della produzione energetica calabrese, che vada ad intaccare appunto quelle che è l'ambiente e che comporta una devastazione significativa del territorio. Abbiamo parlato dei rifiuti, abbiamo parlato della situazione di Terzigno, di Pianopoli e di quello che è successo nelle ultime 24 ore, molto concitate, Rossanesi, attorno a Bucita, alla discarica. Dopodiché vi lasciamo, vi auguriamo buon proseguimento di serata, buon viaggio per gli ascoltatori di Radio Ciroma, quelli che stanno in macchina, buon sonno per gli ascoltatori di Radio Ciroma, quelli che stanno a casa, buonanotte a tutti quanti, da Flavio, Tarlo, Gustavo, Regina, Paolo, Pierpaolo e tutti quelli che hanno partecipato alla costruzione di questa puntata, e appunto vi lasciamo con la nostra sigla a chiusura, il grande Ratzinger. Ratzinger. Dalla fortezza di San Pietro arriva, coi pugni teologici Ratzinga, Ratzinga, tuona, si scaglia dal sagrato contro il male, se sei nemico prega è già finita, la chiesa mantenente c'è Ratzinga. Ratzinga, croci rotanti, Ratzinga, Pater Noster, Ratzinga, ostia di fuoco, ha la mente di Lutero ma tutto il resto va da sé, non conosce la paura né tra italiane che cos'è, lotta cane si rialza sempre vincerà. Ratzinga. Dagli occhi sputa fuori salmi gamma, non c'è chi è forte più di te Ratzinga, Ratzinga, ha la mente di Lutero ma tutto il resto fa da sé, non conosce la paura di sa italiane che cos'è, se bisogno puoi invocarlo con la Bibbia apparirà. Ratzinga. Santa, la mafia diabolica.